vita, una volta nella vita, una volta nella vita, non ci riuscirai, non mi fermerai, a costo di finire, a costo di finire anch'io all'hotel, cuore rotto. Steve McQueen, Betty Page, yeah.